la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di 24, qui in diretta 16.35, primi 52 secondi dagli studi di 24 di Milano. Grazie a chi ci ascolta e chi ci scarica in podcast. Se volete telefonarci oggi all'800 24 0024 per dirci le vostre ultime impressioni della campagna elettorale, che cosa avete deciso di fare, che cosa vi ha deluso di più, cosa vi ha colpito di più, chiamateci, vi manderemo in onda, perché dedichiamo quest'ultima puntata, non come ho fatto in tutta la campagna elettorale, non tanto alla campagna elettorale in Italia, per quello diteci voi, quanto tentiamo di capire che cosa in realtà succede in alcuni, in due altri paesi. Abbiamo visto, abbiamo parlato il giorno scorso della Francia e della Gran Bretagna, oggi parliamo dell'Olanda e della Grecia, cioè di quelli in cui ci si aspettava delle affermazioni forti dei partiti anti-euro, populisti, delle novità, insomma del voto di protesta. Vedremo anche qua in Italia, lo sapete, in realtà la vera gara è quanto vicino il 5 Stelle arriva al PD di Renzi. Io vi dico solo che stamattina sono rimasto colpito dalla conferenza stampa di Renzi, dove il Presidente del Consiglio ha annunciato nuovi sgravi fiscali, ha detto che gli 80 euro per i 25.000 euro lordi annui ai lavoratori dipendenti sono solo l'inizio, e nuovi sgravi fiscali. Per carità, chi più di me potrebbe esserne felice, però io vi ricordo, in ascolto, che sono le tabelle del DEF, del Presidente del Consiglio di Renzi, non le mie, quelle di metà aprile scorso, non dell'anno scorso, che dicono che la pressione fiscale nel 2014 è prevista in salita al 44%, era solo poco meno l'anno scorso, ma in salita, e che resta anche nel 2015 quella. Quindi, siccome sono le tabelle del DEF del governo a dire che margini per sgravi non ci sono, vedremo dopo le elezioni, ma intanto la sua campagna elettorale è finita così. Non dico una parola sullo scambio di Frizzi, Lazzi, l'eredità di Berlinguer contesa, Hitler di qua, di là, eccetera, eccetera. Io dico solo che continuo a capire e a non sottovalutare la portata dell'incazzatura, della delusione della gente che vedrà un risultato, secondo me, di Grillo in crescita rispetto alle politiche. Vediamo se mi sbaglio, non do giudizi, ma credo che la politica debba interrogarsi sul fatto che la delusione cresce. L'Italia è il paese più piantato nell'eurozona, recuperiamo meno PIL, sia pur nella recessione, di quanto non abbia iniziato a recuperare la stessa Grecia. La Spagna fa più 0,4 mentre noi siamo a meno 1% nel primo trimestre di quest'anno. In tutto questo i giornali di mezzo mondo stamattina ridevano dell'Italia perché con questi nuovi criteri dell'Eurostat, in cui si può inglobare nel calcolo ufficiale del PIL anche i proventi di droga, traffici illeciti e prostituzione, i giornali di mezzo mondo, sono criteri Eurostat, poi ogni autorità nazionale statistica li interpreterà entro una certa forbice, ma i giornali di mezzo mondo deridevano l'Italia, che dice l'Italia pensa di gonfiare il suo PIL che sta fermo e avendo perso 9 punti di PIL sul 2008 grazie a cocaina e mafie. Non credo che ci faccia molto bene questo criterio aggiuntivo di calcolo del PIL, a dire la verità, ma questa resta la mia opinione. Allora, cominciamo questa prima parte della trasmissione a parlare di un paese in cui si è già votato per le europee, e singolarmente devo dire, perché si è votato in Irlanda e si è votato per le europee e amministrative, scusatemi, in Gran Bretagna e Irlanda del Nord, si è votato in Olanda. Oggi si vota nella Repubblica Ceca, in teoria gli exit poll, i risultati e così via dovrebbero essere coperti da embargo fino a domenica sera, tant'è vero che per esempio del voto europeo della Gran Bretagna non ne sappiamo nulla, ma sappiamo intanto che nelle amministrative si votava in più di 170 equivalenti dei nostri comuni tra Gran Bretagna e Regno Unito, l'UKIP di Farage in effetti non è che è esploso, ma è andato molto bene, perché su 140 dei 170 comuni scrutinati trovate la tabella in tempo reale sul sito del Telegraph. Nel frattempo ad andare benissimo sono i laburisti, che scavalcano per numero di seggi in questi 170 comuni i conservatori, perché guadagnano 151 seggi, vanno a 900 seggi in generale. I conservatori, che ne avevano più di loro prima del voto, ne perdono 100 e passano a 760, ma poi il grande dato è che appunto l'UKIP di Nigel Farage guadagna 90 seggi, ne aveva solo 12 in questi 170 comuni e adesso va oltre i 100 e sono soprattutto concentrati in Inghilterra e in Inghilterra meridionale, e quindi questo fa presagire che comunque alle europee non andranno male, a dire la verità. Vanno malissimo i liberal democratici alleati con i conservatori al governo, che perdono metà della loro rappresentanza, avevano circa 200 seggi in questi 170 comuni, passano a 100. Ma in Olanda si è già votato e, a differenza di quanto si potesse immaginare, in realtà gli exit poll li abbiamo, quindi adesso dobbiamo tentare di capire se nell'Olanda il partito di cui era attesa l'esplosione, cioè il PVV di Geert Wilders, è andato così bene oppure no. E ci spiega la situazione olandese Massimiliano Sfregola, che è corrispondente dall'Olanda per Il Fatto. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Non si sente nulla, quindi dobbiamo richiamare Massimiliano Sfregola. Mentre lo richiamiamo, io vi informo degli ultimi exit poll, dei più recenti, che in realtà sono gli exit poll che si riferiscono a ieri sera, quindi alla chiusura dei seggi in Olanda, e il PVV di Wilders non è andato, secondo questi exit poll, così bene come si immaginava, nel senso che in un voto al quale hanno partecipato pochissimi olandesi, solo il 37% degli aventi diritto, al PVV andrebbe solo il 12,7% dei consensi, quindi sì, tre seggi, ma comunque non l'esplosione che si attendeva. I liberali di Democrazia 66 avrebbero il 15,6%, seguiti poi dai cristiano-democratici, fermi intorno al 15,2%, però vedete anche che la differenza tra le percentuali dei primi tre grandi partiti non è poi così elevata. Vediamo se il collegamento è tornato ed è buono. Massimiliano, cioè, ci senti? Sì, pronto, ecco, ci sono, mi sentite? Eccoci qua, grazie a te di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a voi. E allora, spiegaci un secondo come mai l'embargo non funziona e noi abbiamo gli exit poll olandesi. Allora, innanzitutto c'è da chiarire una questione inerente all'exit poll. Il Ministero della Giustizia olandese è stato investito dal quesito se effettivamente fosse lecito o meno divulgare gli exit poll. Loro hanno interpretato che i risultati ufficiali avrebbero violato gli accordi con Bruxelles, mentre invece gli exit poll non potevano essere impediti. Quindi di conseguenza loro sostengono di essere ancora, di aver rispettato gli accordi con Bruxelles. Quindi il risultato ufficiale arriverà domenica sera alle 9, e per quanto riguarda gli exit poll hanno alzato le spalle, come dire, non possiamo fare nulla, non possiamo impedire essendo poi lo spoglio pubblico, essendo comunque la lettura delle preferenze pubblica, e diversi siti si erano organizzati, andiamo e raccogliamo direttamente noi così di impressioni del pubblico e ricostruiamo il voto. Quindi di fatto la stampa si sta muovendo in una direzione, mentre invece le istituzioni stanno attendendo domenica. Ma esatto, quindi attendiamo domenica, anche perché chiedono molti ascoltatori, dice, ma che attendibilità hanno questi exit poll secondo i quali, confermami se ci sono diversità rispetto a quello che ho detto, il PVV di Wilders andrebbe non oltre il 12,7%, ma sono attendibili questi exit poll secondo te? Sono stati incrociati in realtà gli exit poll di tre istituti e quello più diffuso in Olanda, diciamo, il mago dei sondaggi olandese Maurice de Hond, per quanto i suoi metodi siano abbastanza criticati, ma allo stesso tempo è considerato uno dei più attendibili. E lui e gli altri due istituti di sondaggi, grosso modo, hanno un turnout simile. Quindi diciamo che sono, a meno che non abbiano fallito, diciamo, in tre, comunque in linea di massima sono abbastanza attendibili. Quindi c'è una forbice ridottissima, di uno scarto ridotto tra i vari exit poll, quindi a meno che non sia successo. Soprattutto c'è da ricordare che in Olanda si vota con il proporzionale puro, sì. Di conseguenza, non essendoci nessun tipo di distorsione per quanto riguarda il sistema elettorale, è abbastanza facile riuscire ad ottenere un risultato fedele della ripartizione dei seggi. Pertanto possiamo dire che gli exit poll che avete visto in Italia sono con buona probabilità il risultato che uscirà, che verrà confermato domenica. Oh, per la situazione politica, ricordiamo che l'Olanda ha avuto un primo trimestre disastroso con il PIL con meno 1,4% sul trimestre precedente. Questo risultato cambia qualche cosa? Beh, allora, il risultato, proprio questa mattina pubblicava un commento sull'NRC, che è il quotidiano di Rotterdam, veniva commentato il fatto che forse l'unico vero vincitore di questa tornata è proprio il premier Mark Rutte. perché in un certo senso il premier Mark Rutte, lo ricordiamo per chi non sia troppo esperto in ascolto delle cose olandesi, è il leader del BVD, cioè il Partito dei Liberali. Lui in realtà era il grande antagonista in questa tornata elettorale di Wilders, perché in fondo, pur avendo cercato di mantenere in campagna elettorale via Lindo e Staffe, quindi mostrando una sorta di moderato antieuropeismo, ma allo stesso tempo lui ha un rapporto diretto e consolidato con Bruxelles, quindi per quanto riguarda il voto, è stato un voto pro-Europa, a differenza di pro-Europa, quindi ecco, non c'è quindi un segnale anti-europeo fortissimo dall'Olanda. Wilders l'ha interpretato, ecco, il 70% non va a votare, quindi di conseguenza la gente non vuole l'Europa, però diciamo che i commentatori politici sono tutti concordi nel dire che il voto è stato assolutamente pro-Europa. Anche perché anche nelle elezioni precedenti hanno votato ieri il 37%, però nelle elezioni precedenti hanno votato ancora meno, il 36,7%. È stato, difatti dicevano, se si dovesse superare il 30% sarebbe un successo, superato il 35% sarebbe un trionfo, diciamo che siamo a una percentuale che è uno 0,2-0,3% più della scorsa tornata elettorale, quindi insomma le elezioni sono andate come erano andate 5 anni fa, e quindi diciamo possiamo decisamente dire che è stato un voto pro Europa. Due terzi dell'elettorato ha votato certamente pro Europa. Quindi grandi fastidi, diciamo così, all'asse che fin qui ha governato, chiamiamolo asse Merkel per intenderci in due parole, l'Europa, dal contributo degli eletti al Parlamento europeo la olandese non verrà. No, non arriverà, e allo stesso tempo il premier Mark Rutte ha avuto anche una soddisfazione interna, perché lui guida una coalizione, in olandese si dice PARS, che vuol dire viola, violetta, che è un governo di larghe intese tra laboristi e conservatori. Esatto, fatto bene a dirlo. E lui si trova in questa situazione che il suo partito, pur avendo avuto delle perdite consistenti, non ha avuto il tracollo. Il tracollo che si immagina. Va bene, io ti devo, siccome il tempo corre, io ti devo ringraziare e salutare, però alla prossima, perché abbiamo capito di avere un analista per il fatto in Olanda, insomma, acuto, e quindi grazie anche per il lavoro che fai. Noi adesso abbiamo 60 secondi dedicati all'informazione sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a parlare di questo ultimo giorno di campagna elettorale per l'Europa. Abbiamo visto in Olanda l'attesa dell'esplosione del voto antieuropeo, non c'è stata, solo terzo il partito, un po' xenofobo, parecchio xenofobo secondo me, di Geert Wilders. Alcuni vostri messaggi, allora, alcuni sono dedicati al tema del PIL e in maggioranza molto critici su questo fatto che estenderemo, amplieremo la misura del nostro PIL grazie all'illegalità, e devo dire che li condivido. Poi ne avevo visto uno che diceva, ma insomma anche gli insulti di questa campagna elettorale sono più apprezzabili di quelli delle 20 anni di campagna elettorale PD Berlusconi. Questo è Marco da Ferrara che ce lo dice. Poi altri invece che dicono, ecco, ne scelgo uno di questo filone: ho visto ieri sera Porta a Porta Renzi, ho visto un essere costruito che nemmeno lui crede troppo più a quello che dice alla fine della campagna elettorale. Credo che Renzi, dice un altro messaggio, farà niente o poco. Se non calano le tasse, chi può va via da questo paese, la disoccupazione aumenterà, mi sembra che sia tutto fermo al di là delle promesse. Allora, sentiamo rapidamente anche una telefonata dell'ascoltatore e poi andiamo a capire invece cosa dobbiamo attenderci dalla Grecia, lo sapete, il paese più in ginocchio con quello che è successo in questi anni. Noi veniamo subito dopo, però i greci hanno effettivamente subito un depauperamento del reddito disponibile e dell'occupazione bestiale, bisogna dire, usare l'aggettivo adeguato, spero che non vi offendiate. Sentiamo intanto Giancarlo da Roma che ci dice la sua impressione della campagna elettorale fin qui. Giancarlo, prego. Salve, piacere di parlare con lei. Sì. Allora, io credo che già con le campagne elettorali nazionali la classe politica dà il peggio di sé. Per quanto riguarda le europee, che è già un tema di votazione che non è sentito dalla popolazione, la nostra classe politica, per rimanere in quell'ambito, quindi la classe politica che sentiamo nei telegiornali, nelle trasmissioni televisive, alla radio con voi o con altre trasmissioni, è di una stucchevolezza mortale, perché parlano non so a chi, la gente che io ho qui seduta vicino, io sono vicino a un benzinaio. Ha altri problemi rispetto a quelli della campagna elettorale. No, chiarissimo. Fabrizio da Ferrara invece, che impressione? Sì, Sì, buonasera Giannino. Buonasera. Io la chiamavo per dirle appunto, io sono la cittadinanza francese, voterò alle europee per il comune di Ferrara, il Movimento 5 Stelle. Ho tre figli e secondo me è l'unico movimento che ha un programma serio. Gli altri hanno solo spot per quella croce famosa sul simbolo, dopodiché si dimenticano del popolo e occupano, come hanno sempre fatto, le stanze del potere e se ne fregano ampiamente dei problemi. Fabrice, posso fare una domanda rapida? Per lei è una nuova scelta o è una scelta che aveva già fatto nel tempo, negli anni, eccetera, eccetera, questa del 5 Stelle? No, guardi, io le dico la verità, Giannina, è la prima volta che voto in vita mia ed è l'unica volta che veramente un movimento mi ha convinto. Bene. Non ho mai votato, quindi spero anche di portargli fortuna. Va bene, grazie Fabrice, e veniamo alla Grecia. Abbiamo Dimitri Deliolenes, invitato più volte nelle trasmissioni che conducevo, corrispondente della TV pubblica greca, RT, autore di un libro di cui parlavamo appunto, Alba Dorata, la Grecia nazista minaccia l'Europa, e grazie alla crisi che ha avuto la Grecia, se poi è nato Alba Dorata e ha avuto i voti che ha avuto. A Dimitri Deliolenes chiedo di farci un punto di quello che ci si aspetta dal voto greco, su due aspetti: da una parte la destra, ancora una volta Alba Dorata, dall'altra Syriza, la sinistra che poi è diventata anche una sinistra, per così dire, alternativa, visto quanto ha messo sotto i tradizionali socialisti greci anche nel resto d'Europa. Da questi due punti di vista, che cosa ci si attende dal voto greco, Dimitri? Guarda, sono collegati le due domande, perché quello che ci si attende è un vantaggio, vedremo quanto consistente, della sinistra radicale di Syriza, è un calo dei due partiti di governo, quindi Nuova Democrazia e Socialisti del PASOK. Adesso, se questo calo di Nuova Democrazia sarà consistente, è evidente che avremo l'equivalente quasi crescita di Alba Dorata. Se invece sarà contenuto, anche la crescita di Alba Dorata dei nazisti sarà contenuta. Di sicuro in questo momento posso prevedere che sicuramente Alba Dorata riuscirà a mandare a Strasburgo almeno un deputato europeo. Quindi con una percentuale a quel punto? Un po' superiore a quella che ha ottenuto due anni nelle elezioni nazionali, che era del 7%. Invece il distacco tra Syriza e i socialisti a quanto potrebbe ammontare? Ah, con i socialisti sarà immenso, nel senso che il PASOK di Evangelos Venizelos sta andando incontro a una sconfitta epocale. Io personalmente non gli do sopra il 4%. 4% ha detto. Qua, sì, consideriamo che nel 2012 ha preso il 12%. Ha preso il 12%, però storicamente Nea Democrazia, cioè il partito di centrodestra, e i socialisti avevano percentuali a doppie cifre pazzesche. È finita per sempre, secondo te, quella lunghissima fase della storia greca democratica? Cioè del bipartitismo? Sì. Questo è un argomento di grande discussione in Grecia, se cioè il vecchio bipartitismo socialisti conservatori è stato sostituito da un nuovo bipartitismo Syriza conservatori, o se invece stiamo andando, diciamo così, a uno scenario all'italiana, alla prima repubblica in Italia, no? Cioè di governi di coalizione, partiti piccoli o medi che sono presenti in Parlamento, eccetera, eccetera. Francamente è un po' presto per capirlo e per dirlo, ma in caso di voto europeo come quello che ci hai prospettato, il governo di cooperazione, ohimè, europea bisogna dire, di cooperazione di larghe intese, rischia? Sì, rischia molto perché come esattamente fa Grillo in Italia, anche Syriza in Grecia aspetta di avere un successo consistente, un vantaggio significativo politicamente per chiedere elezioni nazionali. Ora vedremo, io sono molto interessato all'evoluzione del laboratorio greco, a dirvi la verità, per una serie di ragioni che adesso non ho tempo di spiegare, ma ne parleremo meglio analizzando poi i voti, perché oggi abbiamo solo avuto gli exit poll olandesi. Riflettete bene in queste ultime ore su cosa votate, intanto continuate su Radio 24, appuntamento con me a lunedì.